Tu sarai dunque tu Mustafa. Sarà quel che sarà, io non mi voglio per questo rattristare. La prendi così. Che ci ho da fare? Oh, povero Taddeo. Ma di me non ti fidi. Preso mai forse, anima mia, per un pompeo, di quel tuo cicisbeo, di quel lindoro. Io non l'ho visto mai, ma so tutto. La mai prima di te, non nego, a molti mesi che d'Italia è partito, ed ora... Ed ora se ne zia la signora a cercare in Galizia. E tu? Perché io, col nome di compagno, glielo dovevo condurre. E adesso? E adesso, con un nome secondo, fu in un serraglio a far, lo pensi il mondo. Della sorte, io so fare differenza. stanco, sono stanco, sono stanco di soffrire, sì, sono stanco, sono stanco, sono stanco di soffrire, sì, di soffrire, sì, di soffrire, sì, di soffrire. Oh, più fremma e più prudenza di qualunque innamorato. Oh, più fremma e più prudenza di qualunque innamorato. Ma commento del passato tutto bene che può venirsi contento, contento tutto quel che può venirsi contento, contento tutto quel che può venirsi tutto quel che può venirsi tutto quel che può venirsi tutto quel che può venirsi. Con la scaltra è un precipizio. Meglio un turco che un piccone. Meglio il fiasco che il lampione. Meglio un turco. Meglio il fiasco che un piccone. Che il lampione. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Vanne al diavolo. In malora più una donna di un fuoco di garrin. Buonanotte, sì signora, ho finito l'impazzir. Vanne dio, buonanotte, fuori in malora più una fuoco ho finito l'impazzir. No, no, buonanotte, vanne dio, sì signora, vanne dio, ho finito l'impazzir. Ho finito l'impazzir, ho finito l'impazzir. Sarà, sarà, sarà, quel che sarà, non pensare. bascel veneziano riscattato pur ora dei momenti di qua partir. Vorresti in Italia tornar? Alla mia patria! A qual grazia, o signor, di più longevo? Se quel vi la conduci e te il concedo. Che dici di me? Va in campo del vascello il capitano a ricercare. E di a nome mio che egli di qua non parta senza di voi. Io mi tolga un mal, assi odiato soggiorno, tutto deggio accettar, vado e ritorno. Dunque deggio lasciarmi. Nell'Italia tu sarai bene. Viva, viva il bei! E che Grecia lì! Liete novelle, una delle più belle e spiritose italiane. Che bene! Canta d'estè con altri schiavi è in nostra mano. Or mi tengo da più del gran sultano. E la vita adesso con l'italiano tu puoi apprezzare di partire. Dulma, con essi tu pure andrai. Con questa signorina me la voglio godere. E agli uomini tutti oggi insegnare io voglio di queste belle a calpestar l'orgoglio. C'ha di solito d'ore nel petto, agitore a bambare mi sento, un ignoto sale contento, che mi trasporta e brillare mi fa. Quando soave contento mi trasporta e brillare mi fa. Un ignoto soave contento mi trasporta e brillare, brillare mi fa. Voi partite, ne più m'annoiate, coppa seco, obbedite, ma seco, obbedite, voi la bella al mio seno mi date, ma prestate a trovare la beltà, voi la bella al mio seno mi date, ma prestate a trovare la beltà, sì la beltà, sì la beltà. L'acceso dormivo, questo caro trionfo l'ho messo, quanto dolce a quest'anima sarà, al mio foto, al trasporto, al desio, non resiste l'acceso dormivo, questo caro trionfo l'ho messo, quanto dolce a quest'anima sarà. Voi partite, m'annoiate, obbedite, m'annoiate, ora seco, non lasciate, obbedite, obbedite. Al mio fuoco, al trasporto, al desio, non resiste l'acceso cor mio, questo caro trionfo novello quando dolce a quest'alma sarà, quando dolce a quest'alma sarà, sarà, sarà quest'alma, quest'alma sarà, quando dolce a quest'alma sarà, sarà, sarà quest'alma, quest'alma sarà, quanto dolce quest'alma sarà, quanto dolce quest'alma sarà, quest'alma sarà, quest'alma. dama è già disposto l'ascello a salvar e non attende altri che noi. Voi sospirate. Almeno che io possa ancora volta riveder Mustafa. Sol questo io bravo. Pria di parli ti dobbiamo congedarsi da lui, ma se vi scaccia perché l'amate ancor, fate a mio modo, affrettiamoci parli di allegramente, e voi siete finalmente giovine, ricca e bella, e al mio paese voi troverete quanti buona donna bramar, mariti e amanti. Ma con vien di simular pezzo, o che pezzo la sole colo, ma conviene di dissimulo, ma conviene. Un palo, addirittura, a te che brutto affare.

fine me stesso io su questo lido trovo l'indoro e lo ritrovo in fido. Urgengo, ma lo arresta, adorata Isabella, in che peccai che mi fuggi così? Lo chiedi ancora, tu che sposa del vero? Io, e di condurla, non di sposarla, o ecco, e sol mi imbussi per desio d'abbracciarti. Mi creder posso? Mi incendi sia un fulmine, se mai pensai tradir la nostra fede. Al cuore, te caro l'amor mio, la notte breve. Che far d'agir? Fuggir dobbiamo insieme. Quelli stesso voscel qualche raggiro, qui bisogna intrecciar. Sai che una donna non va di me più intraprende in cardina. Cara Isabella, tu mi torni in vita. T'attendo nel boschetto, inosservati, concerteremo i nostri passi insieme. Separiamoci per ora. Verrò, mi assieme. Oh, come il cuor di giubilo esulta in questo istante, trovare la amante, la car sua crudeltà. Sol questi amor tuoi voli, questi tuoi diventi, a tu sostenga e ridi la felicità. O come il cuore di giubilo esulta in questo istante, esulta in questo istante. Questa signorina è tale che io ne sembro innamorato. Ma, signor Mustafa, che cos'è stato? Abbiate compassione di un innocente, io non ho fatto niente. Ma spiegati, cos'hai? Mi corre dietro quell'amico del palo. Capisco, è questa la cagion del tuo spavento. Forse il palo in Alceri è un complimento. Eccolo, ahimè. Non dubitare, ei viene d'ordine mio per onorarti. Io voglio mostrare quanto mi cara tua nipote, perciò t'ho nominato mio grande Caimacan. Grazie, obbligato. Thank you. Caimacan, io non capisco niente. Vuol dire luogo tenente. E per i meriti della nostra nipote, a quest'impiego la vostra signoria va destinato. Appunto, amico mio. Grazie, obbligato. Un atteso sulla testa, in quest'abito, m'imbroglio. Se vi fa plazzo, se ho festa, Caimacan, e se non voglio, ringrazio e ringrazio il mio signore dell'onore che vi fa. E ringrazio il mio signore dell'onore che mi fa. Fare un conto, se ricordo, il caro è pronto, e se accetto, è mio dovere di portarmi le candeliere. A Taddeo che vivi è questo, a Taddeo che vivi è questo, ma quel caro, ma quel caro, Caimacan, signo mio, presto, non vi voglio disgustar. Caimacan, signo mio, resto, non vi voglio disgustar, no. Caimacan, signo mio, resto, Caimacan, signo mio, resto, non vi voglio disgustar, non vi voglio disgustar. Va in bocca al lupo, chi pecora si fa, solo le mogli fra noi, quelle che formano i mariti, pur su fa del mio mondo, in questa stanza ritirate. E poi vedrete come Mustafa farò del zar la testa. Che spirito ha costei, qual donna è questa? Voi restate, a momenti e sarà qui, finiamo da vigliarci, che li venga. Oh, sen viene, or tutta l'arte a me adoprar conviene. Thank you. Turco caro, già ci sei, un colpetto mi di cascar. Turco caro, caro, caro, caro, caro, un colpetto, un colpetto, un colpetto mi di cascar. Turco caro, caro, caro, caro, caro, un colpetto, un colpetto, un colpetto mi di cascar. Che con me mai costei? Turco caro, già ci sei, già ci sei, già ci sei. Sale un uomo che mi ha. Un colpetto, un colpetto, un colpetto mi di cascar. Turco caro, caro, caro, caro. Io non resisto più. Questa Isabella è un incanto. Io non posso più star senza di lei. Andate e conducetela. Senti, Caimacan, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei. A Taddeo de Taddei, a quel cimento, a quel passo si giunto. Ma che fa questa bella? Eccola, appunto. Ti presento di mia mano, Ser Taddeo Caimacan. Ti presento, Ser Taddeo Caimacan. Faccio a prendi quanta stima di te faccio. Ci apprendi quanta stima di te faccia, di te faccia, musa fa. Il tuo è un'invenzione.

stavolta il bei perde la testa. Ci Augusto tanta smania avea d'un italiana. Ci vuol altro con le donne allevate in quel paese, ma va ben che gli impari a proprie spese. Oh,

veder e non veder, veder e non veder, sentire e non sentir, sentire e non sentir, per mangiare e per goder, per mangiare e per goder, di lasciare fare dir, di lasciare fare dir, io mi giuro e poi scongiuro, io mi giuro e poi scongiuro. E se manco il giuramento, e se manco il giuramento, più non abbia un pezzo il mento, più non abbia un pezzo il mento, io mi giuro e poi scongiuro, io mi giuro e poi scongiuro. Thank you. tradimento, questo è un tradimento, campati, collati, ne siamo, signor, ne siamo, signor. Io sono pappataci, ma quei, mangetaci, ma voi, lascia far, ma io, lascia dire, voi me, c'ho da far, voi me, c'ho da far, restare o partir, restare. O partir del palo celesto, se parto il lampione, l'indoro Isabella, son qua con le buone, a tutto m'adatto, non so più che dir, a tutto m'adatto, non so più che dir. Ma presto se trami con noi di venir, a tutto m'adatto, se trami con noi di venir, a tutto m'adatto, se trami con noi di venir, a tutto m'adatto, se trami con noi di venir. Mangiatati, pappataci, pappataci. Di vedere non veder, di sentire non sentir, io vi giuro e poi scongiuro. Pappataci, mosta fol. E gli fatto, e come fatto, e tagliata se ne va. Come, come, 歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。